cambiami la maglietta, ma togli l'etichetta. Dico non puoi cantare perché mi fai stufare. Io chiudo quel cassetto, guarda io chiudo tutto, così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così. È così. Dammi, dammi la mano, perché ti voglio bene, tanto come una casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale. È così, è così. È così, sì. Voglio vederti ancora che scendi per le scale. Voglio abbracciarti ancora prima di andare via. Voglio sentirti ancora che inventi le parole. Un giorno. Vedere il tuo sorriso, voglio sentirti ancora che dici fai così, e ti prometto ancora che andiamo a fare un giro, ma poi torniamo qui. Mamma, io vado a letto perché io sono stanco, ho voglia di dormire, mi vieni tu a coprire, e sogno un bel gelato, anzi un bel gelatino, e sogno di mangiarlo nel sole del mattino. È così, è così. È così, sì. Voglio vederti ancora che scendi per le scale. Voglio abbracciarti ancora prima di andare via. Voglio sentirti ancora cantare le parole. Un giorno. Vedere il tuo sorriso, voglio sentirti ancora che dici fai così, e ti prometto ancora che andiamo a fare un giro, ma poi torniamo qui. Così, è così, è così, è così, sì.